è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara @radio24.it per le mail, titoli del TG2. Viareggio, stazione di Viareggio, ieri notte la tragedia, deraglia un merci, un convoglio di contenitori di GPL, il gas uscito da una cisterna si trasforma in una nube, poi l'esplosione violentissima, palazzine vicine in fiamme, due crollano, una apocalisse. Ad ora i morti sono 16, almeno 30 i feriti gravi, dei quali 14 gravissimi, circa 1000 gli sfollati, ancora 4 i dispersi. Il capo della protezione civile Bertolaso parla di situazione ancora. Questo è il titolo unico del TG2, è la stessa cosa per Studio Aperto e probabilmente avremo la stessa ripetizione per quello che riguarda i telegiornali della sera. Naturalmente potete intervenire e dire quello che volete su questo incidente ferroviario e da questa mattina che facciamo dirette ininterrotte con i commenti, la sicurezza, la manutenzione, la liberalizzazione, le carrozze che sono state utilizzate sono di operatori stranieri, quello che volete. Io faccio notare solo due cose. La prima, sentirete tra poco, è qualcosa di incredibile secondo me, quello che è accaduto pochi minuti fa a Viareggio quando è arrivato Berlusconi insieme al ministro Matteoli. Naturalmente poteva essere Berlusconi, poteva essere Prodi, poteva essere un altro presidente del Consiglio, ma questo è successo, era una piccolissima minoranza, però già vedo sui giornali online, Repubblica, il Corriere, che questo, soprattutto Repubblica, questa cosa viene rilanciata come se Berlusconi fosse stato accolto da migliaia di persone in rivolta. Sentite. Insomma, una gazzarra, buffone, vattene, questo rivolto al Presidente del Consiglio. Ho letto una cosa su un blog pochi minuti fa, molto forte, molto decisa, scritta quasi di getto, credo, che recita in questo modo, e io sottoscrivo al 100%. Con i 13 morti ancora caldi, con i 34 feriti, con 4 persone di cui ancora non si sa nulla, con il disastro di uno scenario apocalittico, con le fiamme che sembravano l'inferno, ecco, se alla notizia della visita del Presidente del Consiglio, che va là sul posto all'inferno, e questo è quello che francamente mi aspetto dalle istituzioni di chiunque rappresentate, ecco, se voi quattro esseri inqualificabili sfruttate questa tragedia per andare a contestare la vostra ossessione di una vita, siete semplicemente delle persone indegne di stare al mondo. Questo magari è un po' eccessivo, però ci sta nella polemica. Siete dei poveracci, dei disturbati, siete umanamente non sostenibili. Questo è un commento che è una delle poche cose sensate che ho letto oggi tra le tante cose sulla vicenda. C'è un'altra cosa che riguarda lo sciopero proclamato domani dai sindacati. Anche qui è la solita solfa. Domani è il 1° luglio, insomma si avvicina anche un weekend particolarmente complicato. L'Italia è bloccata, spezzata in due per quello che riguarda la dorsale tirrenica. E che cosa fanno i sindacati? Proclamano domani un'ora di sciopero del traffico ferroviario in tutta Italia. Dunque si aggiungerà caos a caos. E questo perché? Sì, per solidarietà alle vittime, eccetera, eccetera, ma anche per la questione della sicurezza. Passiamo a tutt'altro. 800 24 00 24, le sigle della radio, grande concorso da qui a non so quando. C'è bisogno di cambiare questa sigla della zanzara oppure no? La prima scelta finora tra gli ascoltatori è Emilio Fede e i violini di Emilio Fede, sentite. Qui lo vedete con suo adoratissimo Gabriele, il figlio, il bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla. Volete questa come sigla oppure mantenere l'attuale sigla che, lo ricordiamo tutti, è questa. La zanzara di Giuseppe Cruciani. E questa era quella vecchia, quella precedente, ma andiamo a quella attuale, che è un'altra scelta, ma non c'è problema, non ce l'abbiamo, incredibilmente non ce l'abbiamo, abbiamo le due sigle, ma non abbiamo la sigla di adesso, può succedere naturalmente in questo marasma di voci che ci arrivano, non abbiamo la sigla di adesso, insomma è un po' bizzarro, ripeschiamola, la ripeschiamo, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, dobbiamo andare indietro nell'archivio a prendere, è una cosa complicata, non pensate che sia una cosa semplice. Allora andiamo a Di Pietro, vabbè, facciamo dopo, non vi preoccupate, succede, è un po' un paradosso, non abbiamo la sigla attuale della zanzara, comunque tre le possibilità: Emilio Fede e i violini, la sigla di una volta, l'avete sentita, la prima zanzara, la sigla di adesso che non abbiamo e vi facciamo sentire anche se la conoscete. Di Pietro è napoletano, tirare la giacca a napoletano. Condivido quello che dice Di Pietro, non il modo, vabbè, insomma, sarebbe un discorso lungo. Però sulla tregua richiesta da Napolitano, cosa significa questa tregua? Fino al G8 non si devono fare polemiche. Sentite Di Pietro oggi a Repubblica TV. Abbiamo discusso. Attaccare Napolitano, noi adesso e tutti i giorni chiederemo a Napolitano, lo supplichiamo, non lo firmi sta legge, che è una brutta cosa. Per la democrazia, per la giustizia, per l'informazione. Diranno che gli tirate la giacchetta. Senti, ebbene, vabbè, tiriamo. Che lo devo tirare la giacchetta, scusa. Al Presidente della Repubblica è l'unico che può garantire un blocco a questa degenerazione dell'utilizzo del Parlamento per interessi privati. E questo era Di Pietro su Napolitano, la legge sulle intercettazioni. La legge sull'intercettazione. Di Pietro ha detto anche delle altre cose interessanti, per esempio no all'alleanza con l'UDC, sapete c'è tutta una discussione nel Partito Democratico, allearsi o no con l'UDC, sentite Di Pietro. Promessa con noi l'UDC di Cuffari, oppure fammelo dire Di Pietrese, ma che ci azzecchiamo noi con l'UDC? E beh, insomma, alla Di Pietrese, cosa ci azzecchiamo noi con l'UDC? 800 24 00 24. Torniamo alla questione delle proteste, perché in Italia, insomma, protestano tutti, protestano perfino i deputati. Leggo dalle agenzie, protestano i deputati, nel senso fanno barricate, gridano buffone al Presidente del Consiglio. È successo oggi a Napoli da parte dell'onorevole Barbato, Italia dei Valori, lì sulle barricate insieme a non so quali gruppo di disoccupati napoletani che stavano protestando contro il Premier, gli ha gridato buffone, è intervenuta la Digos addirittura per sedare una rissa tra lui ed alcuni consiglieri comunali del PDL. D'altra parte Barbato è capace di passare da una trasmissione molto seria, anche divertente, una delle migliori trasmissioni, Iceberg, su Tele Lombardia, ieri sera le proteste di Napoli in un batter d'occhio. Per esempio la dentiera, secondo Barbato, tutto quello che ha fatto il governo in Abruzzo fino adesso è regalare le dentiere a qualcuno, sentite. Berlusconi ha fallito su tutte le questioni che riguardano gli italiani, sull'economia, sullo sviluppo, sull'occupazione, ha tradito gli italiani. In Abruzzo sapete Berlusconi che ha fatto finora? Ha dato una dentiera ad una vecchietta, questo è l'unico provvedimento che ha fatto per l'Abruzzo. E poi Barbato, che è perfettamente inserito nel sistema comunicativo mediatico di adesso, ha coniato un nuovo termine. Ricordate la puttanocrazia di mignottocrazia, anzi di Guzzanti. Barbato parla di puttanicizia, sentite. Con il governo Berlusconi sta affondando l'Italia. Beh, adesso allora, è la verità, perché non è un problema di puttanicizia. Questo è un nuovo termine che poi vi spiegherò come che significherà. Si chiama questo? Che praticamente è la sintesi tra la puttanità e la puccizia. La prego, onorevole. Il problema è altro. Il problema è che non governa l'Italia Berlusconi, perciò affonda l'Italia. E chi governa l'Italia? Nessuno. Noi siamo senza un premier. Noi siamo senza un governo che governi gli interessi sani degli italiani. Alessandro da Parma, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Fondamentalmente il mio intervento era rivolto a seguito di quello che il primo articolo sentito stasera, cioè il fatto che Berlusconi ha visitato Viareggio. E io fondamentalmente sono contrario a quelle proteste, perché sono veramente non ci stanno, non stanno, sono fuori luogo, specialmente in un momento del genere. Però sono fondamentalmente contrario all'impressione che si è avuta negli ultimi anni per quello che riguarda le infrastrutture italiane, cioè tutta la politica fondamentalmente di Berlusconi è rivolta per le infrastrutture, rivolta alle grandi imprese, vedi il ponte sullo stretto, vedi la linea veloce, sono tutte sicuramente strutture che servono, ma si tralascia quello che è la struttura di base delle nostre infrastrutture, che sono fatiscenti. Io penso al ponte di Piacenza che è crollato, penso, se io passo in tangenziale a Milano e guardo i ponti, sotto i ponti, i ponti che si vedono con le strutture di ferro, io poi sono un tecnico e lavoro nell'industria, sono tutti arrugginiti, se lei li guarda, hanno tutte delle strutture e tutto regolato. Sì, Alessandro, battuto bene la manutenzione, sicuramente in alcuni casi ci sono dei problemi, quello che vuole, ma in questo caso non c'entra assolutamente nulla, perché in questo caso c'è la manutenzione forse dei vagoni, ma non sappiamo ancora bene quanti controlli sono stati fatti, eccetera. Lei ha messo un sacco di cose insieme, le grandi opere, l'alta velocità, il ponte sullo stretto. In questo caso non capisco qual è il punto. È stata fatta male, e lo vedremo forse, la manutenzione su questi vagoni. Dovevano essere fatti più controlli da parte delle aziende straniere che sono proprietarie di questi vagoni merci. Vedremo naturalmente, ma cosa c'entrano le grandi opere? C'entrano quando l'impostazione generale è basata soltanto sul spingere sull'innovazione, ma soltanto in un certo settore e tralasciando quelle che sono le altre cose, sono quelle le cose vitali per il nostro paese. Guardi, sto ascoltando il professor Ponti su Sky TG24, che è un feroce avversario del ponte sullo stretto di Messina, ci siamo confrontati più volte, il quale dice che le ferrovie italiane hanno standard di sicurezza molto alto. Per cui di che stiamo parlando? Poi naturalmente un incidente è sempre possibile per svariati motivi, lo vedremo, eccetera. A me tra l'altro sorprende, la ringrazio, quello che ha appena detto il procuratore, non so di dove, di Parma forse, no di Parma, di procuratore generale della Toscana, il quale dice sicuramente ci sono stati degli errori, sicuramente ci sono state delle cose che non... Come si fa a poche ore dall'incidente già a dire che sicuramente c'è del torbido? Non riesco a capire. Diego Destro, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Diego Destro è animatore di un blog, che è il suo blog, che è doblog.com, è così? Do-blog.com. Ed è l'autore di quella cosa scritta di getto, così mi hai detto, di getto subito dopo aver visto probabilmente in televisione le proteste contro Berlusconi e Matteoli. La premessa è questa: le proteste potrebbero essere su chiunque, naturalmente, contro qualsiasi presidente del Consiglio, ma c'è proprio una, in questo caso il devo dire, è che c'è Berlusconi, Giuseppe. Lo so, è così, contro il quale si accumula, per carità, un sacco di odio in qualsiasi occasione. Berlusconi fa parte ormai da 15 anni della lotta politica in Italia e va bene, ma in qualsiasi occasione, soprattutto in alcuni momenti particolari, dove non ci dovrebbe essere, dove non ha alcun senso che venga espresso, ecco lì che spuntano fuori alcuni che prendono spunto dalla tragedia di Viareggio per andare lì, nel luogo della tragedia, dove ci sono ancora 14 morti, a dire buffone, buffone, vattene. Esatto, perché se posso ricollegarmi a quello che ha detto Alessandro, mi pare si chiamasse così, la manutenzione, le grandi opere, non c'entrano assolutamente nulla. Questa gente, questi incivili che sono andati a contestare Berlusconi, non l'hanno fatto perché c'è carenza per quanto riguarda la manutenzione, o perché lo ritengono responsabile di questa tragedia. No, questi sono incivili che sono andati lì perché ritengono Berlusconi, secondo quella che è la loro opinione, indegno di rappresentare gli italiani, eccetera, eccetera, e l'hanno contestato, se ne sono fregati, dei morti che sono morti solo poche ore fa, sono andati lì appositamente per questo. Questo secondo me rivela il lato umano di queste persone, se possiamo parlare di lato umano. Io lo trovo disgustoso, davvero. Non lo ritengo civile, lo ritengo gravissimo e ritengo che qualsiasi persona di buon senso non potrà mai difendere quello che è accaduto oggi, perché Berlusconi sì, Berlusconi no, ma oggi francamente andare a urlargli buffone in carcere, vergogna, insultarlo, vai a casa, non è accettabile in un paese civile. Grazie Diego Destro per questo piccolo intervento, però secondo me molto significativo. Ripeto, potrebbe esserci chiunque lì, anche se il maggiore odio si è accumulato in questi anni nei confronti di Berlusconi, però ho molto apprezzato questa cosa scritta su questo blog di getto da parte di Diego Destro e volevo condividerla con voi che ci ascoltate. Buona serata, grazie. Mirko da Lucca, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo dire che condivido pienamente quello che ha detto l'ascoltatore precedente, però vorrei anche un attimino dire che anche Berlusconi dovrebbe cambiare un po' registro, perché Napolitano proprio ieri ha chiesto di smorzare i toni, lui questa mattina ha contestato a Napoli, ha subito attaccato la sinistra, io non sono elettore di sinistra, però questa è la sinistra che ci rappresenta, questa è la sinistra che c'è in Italia, e poi nel commento dopo, nel proseguire, ha detto adesso poi vado a Viareggio, ci penso io, sistemo tutto io. Insomma, anche lui deve portare rispetto al dolore delle persone e deve... Scusi, Berlusconi, Mirko, Berlusconi ha sbagliato nella sua reazione oggi a Napoli, ha detto questa è la sinistra che... Ma la reazione la può anche fare alle persone... No, ma questo è sbagliato il modo di reagire dicendo la sinistra, sono un gruppo di contestatori cui viene dato spesso troppo spazio. Però, mi scusi, dov'è la mancanza di rispetto? Ha detto vado a Viareggio e prendo in mano la situazione, allora... Adesso vado a Viareggio e sistemo... vado a Viareggio, non ha detto sistemo tutto, ha detto vado a Viareggio e prendo in mano la situazione, qual è il problema? È il Presidente del Consiglio, che deve fare? Non deve andare a Viareggio? Ma che prende in mano la situazione? Non credo che serve Berlusconi. Lui, secondo me, ogni volta trova modo di farci propaganda, tutto lì. Bah, insomma, io in questo caso veramente non riesco a capire, Mirko, il Presidente, quando uno non ci va, allora viene massacrato perché bisogna che il Presidente del Consiglio vada sul posto. Quando uno va, non fa bene perché c'è propaganda, perché si vuole fare pubblicità. Io francamente non so come rispondere a queste cose. Tiziana da Roma, buonasera. Buonasera, mi sente dottor Cruciani? Sì, la sento, dica. Niente, io volevo fare un intervento su quanto era stato detto prima riguardo l'Abruzzo. Proprio lapidario, io non apprezzo moltissimo il governo Berlusconi, ma non mi va di far polemiche, e pensavo che sull'Abruzzo, vedendo quello che si vede attraverso la televisione, ci fossero state fatte delle cose più che buone, onestamente riconoscevo quello che era stato fatto. L'altra mattina sentivo una trasmissione di Radio 2 nella quale intervenivano delle persone che dicevano un loro pensiero, e sono intervenuti o due o tre volontari che prestano l'opera di soccorso presso i terremotati. Allora? E la loro affermazione è stata questa, che a me ha lasciato senza parole, ed è stato: se ce ne andiamo noi volontari non c'è nessuno, perché il governo è assente. Bah. Non lo so, guardi... queste parole, perché non sono state parole... Sì, non... Cosa significa il governo assente? Poi io ho letto tante critiche sull'intervento del governo, che poi non è che rappresenta solo se stesso, rappresenta gli italiani, sull'intervento del governo in Abruzzo. Francamente, anche questo lungo reportage dell'Espresso, che dice circola la droga nei campi dove ci sono le tende, eccetera, c'è spaccio di droga. Io non riesco a trovare una ancora, poi magari a settembre, ottobre scopriremo che le case non si fanno, che è tutto sbagliato. Non riesco ancora a trovare un motivo, uno serio, diciamo, per dire qui è stato sbagliato tutto, qui gli interventi sono tutti sbagliati, bisogna ricominciare da capo. Non ne trovo uno. Giuseppe da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Ho telefonato per l'argomento riguardo allo sciopero che è stato indetto dalle Ferrovie dello Stato per, credo, la giornata di domani. Sì, domani un'ora, sì. Esatto. Ecco, io non lo so, rimango sempre più allibito dal comportamento dei sindacati che invece di trovare una formula, diciamo, un po' più costruttiva di reagire a queste tragedie, come è successo con la ThyssenKrupp, come è successo a Viareggio, invece di fare un'ora di sciopero potrebbero, non so, lavorare un'ora di più e dare i proventi di quell'ora alle vittime di questa tragedia. Giuseppe, anche a me ha colpito questo fatto, non capisco domani un'ora di sciopero il 1° luglio, che è un'Italia spezzata in due. TG3. 13 morti e forse di più per il treno con cisterne di gas deragliato ed esploso nella notte a Viareggio. L'esplosione ha provocato il crollo delle palazzine vicino alla stazione, si scava tra le macerie, oltre 1000 sfollati. Il racconto dell'orrore, un boato, poi l'apocalisse, persone come torce umane, un giovane muore per salvare la sorellina. Le Ferrovie ha ceduto un asse del vagone, nessun errore dei macchinisti, Epifania è una strage annunciata. Il cordoglio di Napolitano alle famiglie Berlusconi e Viareggio tra fischi ed applausi, stato di emergenza, dice ricostruiremo al 100%. Da un mese dal disastro dell'Air France precipita un Airbus yemenita partito da Parigi con 153 persone a bordo, superstite una ragazzina. Al via il ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Iraq, ma continuano gli scontri a fuoco, autobomba a Kirkuk e a Baghdad, una trentina i morti. Roberto Saviano al TG3 parla del suo nuovo libro La bellezza e l'inferno. La verità, dice, è ciò che più mi ossessiona. Va bene, andiamo a sentire anche Sky. Esplode treno carico di GPL, inferno a Viareggio, 13 morti, 4 dispersi. Un bimbo estratto vivo dalle macerie, boato terribile, racconta un sopravvissuto. Ha ceduto l'asse di un vagone, incidente analogo 8 giorni fa a Prato. Berlusconi contestato all'arrivo in città, poi ha visitato il luogo della tragedia. Trasporti pericolosi, esplode la polemica, norme inadeguate, ammette Maroni. Ritardi e disagi nella circolazione, la linea ferroviaria tirrenica spezzata in due. Inflazione minimi da più di 40 anni, da domani calano bollette di luce e gas. Airbus yemenita precipita alle isole Comore, salvo solo un 14enne. Iraq, gli americani smobilitano, il terrore resta, 26 morti in un attentato a Kirkuk. È morta la coreografa tedesca Pina Bausch, rivoluzionò la danza contemporanea. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla. Volete questa come sigla, naturalmente e opportunamente rivista, oppure la sigla che c'è adesso la volete confermare per settembre? È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Oppure, terza possibilità, o altre ancora, fate voi, proponete anche voi qualche brano, qualsiasi cosa per una sigla nuova. Se poi volete una sigla nuova, per il programma di settembre. La sigla vecchia della prima zanzara. La zanzara di Giuseppe Cruciani. E così si iniziava in questo modo, 800 24 00 24, ha suscitato molto scalpore, ho ricevuto tantissime mail, tantissime sms in questi 15-20 minuti dall'intervento di un signore, un ragazzo che fa un blog, Do Blog, il quale così ha reagito quando ha visto e sentito in televisione i contestatori di Berlusconi e Viareggio. Ha scritto: con i 13 morti ancora caldi, con i 34 feriti, con 4 persone di cui ancora non si sa nulla, con il disastro di uno scenario apocalittico, con le fiamme che sembravano l'inferno, ecco, se alla notizia della visita del Presidente del Consiglio, che va là, sul posto, all'inferno, e questo è quello che francamente mi aspetto dalle istituzioni, da chiunque rappresentate, ecco, se voi quattro esseri inqualificabili sfruttate questa tragedia per andare a contestare la vostra ossessione di una vita, siete semplicemente delle persone indegne di stare al mondo, siete dei poveracci, dei disturbati, siete umanamente non sostenibili. Le proteste sono state queste, riassunte naturalmente. Questo è accaduto a Viareggio tra le tante cose oggi, e questo è anche su questo vorrei i vostri interventi naturalmente. I sindacati hanno proclamato un'ora di sciopero per domani, dalle 11 alle 12 in tutta Italia, uno sciopero per un'ora dell'intero sistema ferroviario, per le vittime naturalmente, ma anche sulla questione della sicurezza, la questione della sicurezza. Riprenderei con gli ascoltatori prima di altri contributi, e riprenderei con l'ascoltatore che ci chiamava da Prato, Giuseppe, prego. Sì, buonasera. Niente, appunto, ribadisco quello che ho detto prima, cioè il fatto che i sindacati, io vivo in una città, Prato, una città industriale dove i sindacati hanno sempre avuto un'enorme importanza. Io lavoro nell'industria da tanti anni e devo dire che per ogni evento, che sia stato un terremoto, un'alluvione, un disastro di qualsiasi entità, i sindacati sanno solamente fare sciopero. Io credo che invece sia proprio nello statuto dei sindacati quello di contribuire allo sviluppo del paese, dei lavoratori, e quindi secondo me non sarebbe sbagliato quello di riconvertire questo sistema cercando di contribuire attivamente, nel senso c'è stata una tragedia, vogliamo essere vicini alle persone che vivono questa tragedia, lavoriamo un'ora di più e il frutto di quest'ora lo devolviamo a queste persone che si trovano in un momento di difficoltà. Questo credo che sarebbe spirito giusto, e credo che anche il sindacato ne dovrebbe così trarre anche dei benefici, non chiaramente farlo per questo secondo fine, però proprio per contribuire attivamente. Se poi posso dire ancora una piccola cosa riguardo alle contestazioni per il Presidente del Consiglio, devo dire che ha avuto la sfortuna che questa cosa sia successa nella mia regione. Purtroppo i toscani sotto questo punto siamo molto orgogliosi, ma siamo anche molto così miopi. Solo in alcune zone della Toscana, dopo 62 anni, fra l'altro nella mia città, posso dire regime della sinistra, abbiamo trovato il coraggio. Vabbè, Giuseppe, di regime, lei adesso non faccia il militante o il tifoso del PDL. Qualcuno avrà votato per 63 anni le stesse persone a Prato e le avrà votate democraticamente. La ringrazio. Saverio, prego. Della provincia di Milano, buonasera. Saverio, pronto? Buonasera. Dica. Io sono d'accordo con quella che diceva Mirko prima, che appunto, cioè, mi sembra fuori luogo da parte del Presidente presentarsi lì, come dice quell'altro ragazzo invece, che con i morti freschi, andare a fare una visita simile. Poteva starsene a casa e andare in un altro momento, perché chiunque persona oggi fosse andata lì, dei politici di destra, di sinistra, di centro, avrebbe avuto lo stesso identico trattamento. Poi, visto che io non sono comunista, attenzione, cioè quindi non sono del PDL, neanche del PD, neanche di niente, cioè sono in una situazione bella. quindi mi trovo a giudicare solo le persone. Ma scusi, perché io vorrei capire una cosa, Saverio, sì, perché secondo lei il Presidente del Consiglio non doveva andare a Viareggio? Ma non deve andare nessuno dei politici, perché è un giorno triste, è un giorno che è morto. Quel ragazzo che scrive che con i morti freschi gli uomini di sinistra vanno a contestare Berlusconi. No, non ha parlato di uomini di sinistra, ha parlato delle persone. Beh, insomma, qui io vorrei chiedere una cosa. Avete preso i documenti a quelli che hanno contestato Berlusconi? Perché se ci fossi stato io... Ma non ha nessuno ha parlato di quelli di sinistra. Berlusconi che ha parlato di sinistra, ma si rivolgeva a quelli di Napoli. Non parlava di Berlusconi. Le dico che si rivolgeva a quelli di Napoli perché parlava a Napoli, punto. Per fortuna. No, perché lì in quel momento chiunque l'avrebbe contestato. Ma perché, mi scusi, perché? Guarda caso l'hanno contestato. Perché c'è il governo dopo una tragedia, dice lei. No, no, perché il governo, perché sembra quasi che venga a farsi pubblicità sul posto. Va bene, ho capito. Saverio, sentiamo Berlusconi quando ha detto vado... No, ma ho capito, ma non è quello il punto. Ho capito, secondo lei Berlusconi è andato a... non doveva andare a Viareggio perché la presenza del capo del governo lì lo stesso giorno della tragedia poteva indispettire qualcuno. Io francamente questa cosa qua continuo a non capirla. Berlusconi a un certo punto ha annunciato che sarebbe andato a Viareggio pronunciando queste parole. Sono stato al telefono fino adesso con Bertolaso, è grave, è anzi sconvolgente per come si è appalesata. Abbiamo già provveduto a trasportare le persone gravi negli ospedali che possono offrire le migliori cure. Adesso siamo arrivati con un bambino trasferito al Bambin Gesù di Roma e io vado là per prendere in mano le cose. Vado là per prendere in mano le cose. Secondo alcuni questo qua è un atto di arroganza, vado a prendere in mano le cose. Va. È il modo di parlare di Berlusconi. Vladimiro, provincia di Padova, buonasera. Buonasera. Dica. Pronto, mi sentendo? Sì, la sento, dica. Allora, ho seguito con attenzione la trasmissione e il fatto che lei abbia detto non capisco dov'è il problema. Io credo che avendo individuato, il problema è lui. Il problema è lui e soprattutto in questo momento. Nel momento in cui il Napolitano ha detto abbassiamo i toni, lui non deve andare a provocare in giro, perché c'è quel 50% degli italiani che crede che quello che lui dice lo faccia seriamente, sia sincero. E che dovrebbe fare? Rinchiudersi a Palazzo Chigi? Che crede che sia un fasullo, una persona che non merita nessuna credibilità. Vladimiro, si fermi un attimo, che dovrebbe fare? Rinchiudersi a Palazzo Chigi, non andare in giro? Che dovrebbe fare? Scusi, ognuno ha i suoi ruoli nella vita. Sì, ho capito. Allora, perché io vorrei capire da lei perché il Presidente del Consiglio non può andare a Viareggio? Me lo spiega? No, non è che non meravigliare. Non si deve meravigliare se poi lo contestano, ma nessuno si meraviglia, si fanno delle considerazioni su quello che accade. Qui lo vedete con il suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla. Sta vincendo questa come nuova sigla di poco sulla sigla vecchia, la sigla attuale della Zanzara non riscuote molto successo, mentre già leggo in alcuni messaggi proposte per nuove sigle. Qualcuno propone la canzone di Ennio Morricone, la melodia di Ennio Morricone in Un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Poi ve la farò ascoltare più avanti. 800 24 00 24, Ettore da Milano. Prima però vi faccio ascoltare un personaggio che fra poco avremo come ospite, tanto per farvi un'idea a proposito di anti-berlusconismo. Si tratta di un prete biblista, si chiama Don Farinella, personaggio conosciuto soprattutto tra gli anti-berlusconiani doc, quelli di Micromega per intenderci. Ieri a Iceberg, intervistato nella trasmissione condotta da Parenzo, ha detto, ma insomma, Berlusconi, lei come lo affronterebbe? Sentiamo. Se lo avesse qua davanti, cosa gli direbbe? A Berlusconi? È un satrapo persiano che vuole solo riverenza, no? Dipende da come si presenta, perché se si presenta da strafottente come è, beh, un calcio nelle palle e via. Don Paolo Farinella, ieri abbiamo parlato di... di Fanzaga. Don Paolo Farinelli evidentemente la pensa in modo completamente diverso. C'è un altro passaggio di Farinelli in questa intervista ad Iceberg che va assolutamente sentito. Parla, insomma, se ha questa compulsione sessuale, si faccia castrare Berlusconi. Berlusconi confonde la democrazia con il populismo. Cioè il consenso non vuol dire essere autorizzati a fare quello che si vuole. Lui non può dire io sono fatto così. Se è fatto così o si fa castrare oppure trova una soluzione, oppure si fa le docce fredde. Oggi leggo sul giornale che la Daddario, la notte in cui è stata con lui, le faceva fare le docce fredde. Quelle si prese il raffreddore. Beh, insomma, è straordinario evidentemente. Lo sentiremo più avanti alle 19.35. Andiamo dagli ascoltatori ed eravamo con Ettore da Milano. Prego. Buonasera, ho sentito che lei continua a chiedersi cosa c'è di male se Berlusconi o qualsiasi politico va sul luogo di una tragedia come quella di Viareggio. Io sono volontario di protezione civile, ho diversi anni di esperienza e anche delle occasioni tipo l'aereo contro il Pirellone a Milano. Se c'è una cosa... Ma io, scusi un attimo, Ettore, io non è che ho detto che non c'è niente di male in assoluto. Io ho detto se il presidente davanti ad una tragedia enorme, certo le processioni dei politici non le amo neppure io, si figuri, non è questo il punto. Cioè i politici che vanno lì intervistati, le telecamere, le cose, insomma, questo è evidente. Qui si tratta di una questione diversa, c'è un incidente molto grave in una stazione, a un certo punto arriva per pochi minuti, per qualche ora, a vedere come stanno andando i soccorsi, a parlare con Bertolaso, a parlare con il sindaco, insomma per dare anche l'idea della presenza dell'esecutivo, del governo, sono cose assolutamente normali che si fanno, credo, in tutto il mondo. Il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, Berlusconi, Prodi, mio nonno, Veltroni, quello che è, si ferma lì un'ora, due ore, parla con chi deve parlare, vede il luogo del disastro, si informa, prende visione anche da un punto di vista fisico della situazione. Qual è il problema? Non lo capisco. Qual è il problema? Se vuole glielo spiego un attimo. Allora, qualsiasi Presidente del Consiglio, lo stesso Bertolaso, ha una situazione... di quello che sta succedendo a Viareggio, è successo a Viareggio, migliore di tutti proprio perché non è la visione di chi è sul luogo, ma riprese via satellite, riprese via elicottero, vede meglio di tutti quello che è successo e sta succedendo senza dover andare sul luogo. Quello che volevo dirle, il fatto che arrivi, perché poi questo è quello che succede, quella specie di colonna mobile, perché naturalmente qualsiasi politico di alto rango si porta dietro scorta, funzionari vari, che arrivano sul luogo dove tutti sono nel caos, nel tentativo di lavorare il più presto possibile nella ricerca magari disperata di trovare ancora qualcuno vivo, e anche dei problemi tecnici. E aggiungo che per esempio il fatto che i cittadini sul posto si siano un po', come dire, agitati, nasce anche dal fatto che è un problema psicologico per cui chi è sul posto, i soccorsi, i pazienti vari, hanno una specie di gemellaggio con i soccorritori, che siano i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118, per cui vederli doversi fermare. Perché, ma si può immaginare, come dire, lo scenario, la coreografia, c'è qualcuno che sta lavorando, sirene, gente che corre, un certo tipo di caos da lavoro, e bene o male ci si deve fermare perché arriva il politico di turno. Guardi Ettore, lei è molto ottimista però sulla natura di queste contestazioni, Guardi, non vorrei essere così fazioso da pensare che siano dovute solo a ribellioni politiche, cioè, perché altrimenti queste cose che le faccia Berlusconi o le faccia un altro politico, tra virgolette, non vanno bene. Adesso che debba diventare perché la fate Berlusconi, vanno bene. Qualsiasi politico dovrebbe, secondo me, e guardi, è un pensiero di diversi soccorritori anche professionali, dovrebbe esimersi di arrivare sulla zona del soccorso finché i soccorsi non sono finiti e la situazione messa in sicurezza. Lei ne fa una questione diciamo tecnica, di lavoro, di opportunità anche psicologica nei confronti di chi sta lavorando in condizioni certe volte disperate, sotto stress, certo. A salvare delle persone, e chi i parenti delle vittime stesse sono in una situazione di emergenza. È logico che, ecco, quello che diceva anche la persona che ha scritto quella cosa sul blog, ma è un'idea populista che il politico, che l'amministratore debba arrivare sul posto a verificare. Ma io non dico che debba arrivare, Ettore, non è mica un obbligo, no, io dico semplicemente che siccome accade in ogni parte del mondo... È un errore dappertutto, è un errore... Evidentemente è un modo... È un modo di, tra le varie cose, di disturbare chi in quel momento sta lavorando, perché si immagini se magari c'è una persona sotto le macerie da salvare. Ma non è che si ferma, non è che si fermano i lavori di recupero delle salme, Ettore. Ma non diciamo. Guardi che quando arrivano, se permette, avendo un po' più di esperienza, quando purtroppo arrivano le autorità, in qualsiasi situazione, un pelo quantomeno di rallentamento, se non addirittura in certi casi di stop, lo si deve fare. Ettore, guardi, che sulla zona pericolo i politici non ci possono andare, altrimenti rischiano di farsi male. Appunto, cioè, nelle zone dove ci sono i soccorsi veri, dove si stanno cercando di recuperare magari o le salme o si sta cercando di salvare qualcuno, le cose vanno avanti, immagino. Ettore. Non proprio così, le retrovie sono, come dire, disturbate, glielo posso assicurare. Non so, potremmo aprire una discussione, i politici o i rappresentanti, no, per carità, ma le sue idee, la sua esperienza sono cose da tenere assolutamente in considerazione, per carità. Io penso che una visita a qualche ora da un incidente così grave da parte di un presidente del Consiglio, qualsiasi esso sia una cosa, diciamo, quasi doverosa, anche per far sentire ai soccorritori il fatto che il governo è lì e dà un sostegno. Sono cose forse formali, naturalmente senza che la cosa si trasformi in una passerella, in discorsi, in cose di questo tipo, una cosa rapida, indolore, senza problemi, senza cose che intralcino i soccorsi. Alessandro da Viareggio, buonasera. Sì, buonasera signor dottor Cruciani. Dica. A Viareggio abbiamo perso per l'ennesima volta l'occasione per fare una bella figura. Io sinceramente trovo ingiusto il trattamento che hanno riservato, noi di Reggio abbiamo riservato al Presidente del Consiglio. Anche a questa parte sembra che tutti i paesi sono Berlusconi. La sento male, Alessandro, mi dispiace perché lei chiama da Viareggio, una città colpita da questa tragedia, proveremo a richiamarla. Paolo da Roma. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Prima di tutto mi lasci un attimo di banalità per fare i complimenti nel modo in cui conduce la trasmissione, che è molto imparziale, tanto che ho sentito in passato da qualche ascoltatore darle del comunista. Paolo, lasciamo perdere queste cose, andiamo al sodo, non lasci perdere queste sciocchezze. Sì, no, chiamavo in merito a quell'ascoltatore del blog che si lamentava appunto di questi contestatori che in un momento così delicato andavano lì a fare macello. Io penso che a questo signore quello che gli brucia di più non sia il fatto che in un momento così delicato c'è della gente senza cuore a contestare, ma che questa volta i suoi non sono riusciti a fare una scrematura della gente che va in piazza quando Berlusconi parla, perché se l'hanno fatto vedere anche in televisione, che quando c'era un suo intervento pubblico c'è proprio un servizio d'ordine che blocca la gente e fa entrare solo chi è che va ad applaudirlo. Sì, Paolo, c'erano dei ragazzi, sì, e questo è, voglio dire, siamo in Italia, sì, e la piazza è libera, io sono libero di andare. Ma infatti nessuno sì, ma nessuno contesta il fatto che si può andare là a protestare, a dire buffone, per carità, poi si tratta di poche decine di persone. Detto questo, restano secondo me assolutamente valide le considerazioni che invece ha fatto il nostro ospite di prima, destro. Alessandro di Viareggio, forse ce l'abbiamo di nuovo, eccoci qui. Buonasera dottor Cruciani. Prego. Penso che noi viareggini, come dicevo prima, non so se mi sentivate, abbiamo perso l'ennesima occasione per fare bella figura, perché trovo ingiusto il trattamento che abbiamo riservato al primo ministro. Da 20 anni a questa parte sembra che tutti i problemi dell'Italia sono dovuti a Berlusconi, e come italiano invece mi indignerei ancora di più, perché magari Virpini sta ancora nelle baracche e in altri posti colpiti del terremoto sono sempre la stessa situazione di 20 anni fa. Purtroppo quello che è successo, diciamo, è una fatalità, poteva andare peggio rispetto a come è andata, perché se esplodevano tutte quante le carrozze, le cisterne, a questo punto penso che il centro di Viareggio sarebbe stato disintegrato. E purtroppo niente, quello che è successo è una disgrazia, cioè, abbiamo tutti la morte nel cuore a Viareggio per tutti quei bimbi che sono morti, però contestare, diciamo, un primo ministro che sì, deve fare il politico, però purtroppo tutti i politici sono uguali, sia di destra che di sinistra. Il sindacato, sono d'accordo con il rispettatore di prima, magari era meglio far lavorare 2 ore di più tutti gli operai e donare quelle 2 ore alle famiglie che in questo momento hanno bisogno, invece di fare sempre la politica della fanta politica che non c'entra nulla, sempre la polemica assurda, invece di unirci ci dividiamo in queste. La ringrazio Alessandro, che... ripeto e vi rileggo ancora quello che ha scritto sul suo blog, si chiama Do Blog, il nostro ospite di prima. Con i 13 morti ancora caldi, con i 34 feriti, con 4 persone di cui ancora non si sa nulla, con il disastro di uno scenario apocalittico, con le fiamme che sembravano l'inferno, ecco, se ha la notizia dalla visita del Presidente del Consiglio che va là sul posto all'inferno, e questo è quello che francamente mi aspetto dalle istituzioni, da chiunque rappresentate, ecco, se voi quattro esseri inqualificabili sfruttate questa tragedia per andare a contestare la vostra ossessione di una vita, siete semplicemente delle persone indegne di stare al mondo, siete dei poveracci, dei disturbati, siete umanamente non sostenibili. È molto forte, lo ammetto, però efficace, almeno secondo me, ve lo sto proponendo sin dall'inizio, è uno dei nostri temi di oggi, poi naturalmente potete intervenire su quello che volete. Alle 19.45, Luca da Milano, prego. Sì, pronto, io volevo dire semplicemente questo, innanzitutto anche sentendo l'ultimo intervento, che sembra che adesso ciò che è successo, la tragedia, e la colpa è addirittura di quelli che protestano. Ma no, che fine. C'entra questo? Sì, perché alla fine tutto viene focalizzato sul fatto che ci sono state delle proteste. D'altronde, voglio dire, si può dire semplicemente questo, che Berlusconi è un capo di governo. Sono 15 anni che è sceso, dice di essere sceso in politica, 8 anni, 9 anni che governa, che ha governato l'Italia. Qualche responsabilità se la dovrà prendere. Cioè su che cosa? No? Che sulla tragedia di questa funziona, notte? Su ciò che non funziona in Italia. Perché a me sembra negli ultimi 20 anni forse il paese sta andando un po' allo sfascio. Bah, questo lo dice lei naturalmente. Luca, mi scusi un attimo. Lei dice, siccome ancora le responsabilità, se ci sono tutte da verificare, la manutenzione, come doveva essere fatta, gli incidenti precedenti che ci sono stati negli ultimi mesi, i treni merci, la libera... sono tutte cose che saranno oggetto di indagini. Lei ha già un colpevole, Berlusconi. No, ma alla fine siamo sempre lì. Cioè, chi è stato? Nessuno. Cioè, non è mai stato nessuno. Anche sul fatto dell'Abruzzo, il terremoto, la colpa non c'entra niente, sicuramente un Presidente del Consiglio, c'entra un sistema, c'entra. Io mi chiederei... Il sistema oggi, qual è? Che sistema è che ha provocato il terremoto? Mi scusi. No, quante case sono state costruite, quante L'Aquila sono state costruite. Beh, ancora, in Italia? Ancora, questo che preoccupa alla fine... Che bisogna andare a vedere, ok, quello che è successo, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, però stiamo parlando del fatto che con ancora i morti caldi lì, con i conteggi che si stanno facendo, 14 sono adesso le vittime ufficiali, eccetera, c'è un gruppo di persone che poi viene ripreso dalle telecamere, si innesta tutta una dinamica mediatica, va lì e dice buffone al Presidente del Consiglio, vattene eccetera, il Presidente del Consiglio che si presenta a Viareggio. Io voglio capire, queste scene gli fanno un favore più che un più che un dispiacere a me. Va bene, la ringrazio. Don Paolo Farinella, buonasera. Sì, buonasera. Come sta, Don Paolo? Bene. So che ha un piccolo problema. Sì, ho due problemi, uno alla gamba e uno all'occhio, ma sono problemi che si risolvono col tempo. Assolutamente. Senta, Don Farinella, lei è prete della diocesi di Genova, biblista, sì. Mi sembra, no? Sì, o sbaglio? Sì. Sì, esatto. Lei in queste settimane, da quando è scoppiato il Berlusconi Gate, adesso sembra un po' meno citato dalle cronache dei giornali, quello che riguarda le donne eccetera eccetera, chiede un intervento forte da parte della Chiesa, delle istituzioni, del Vaticano. Perché chiede questo intervento? Guarda, io ho scritto quella lettera all'arcivescovo di Genova, che è anche presidente della CEI, il 31 maggio. Sì, dunque quasi un mese fa, anzi più di un mese fa. Un mese fa, quindi ancora non c'era lo scoppio di tutto il Sardinia Gate. Qualcosina c'era, insomma, c'era già la questione, sì, c'era, Noemi, però non era esploso in questa forma. Poi dopo hanno cominciato e l'ho spedito quell'articolo a Repubblica, che ho aspettato 3 giorni dopo averlo mandato al Cardinale, e poi l'ho messo in rete, e mi sono meravigliato anch'io di questa diffusione che proprio non mi aspettavo, perché io l'ho mandata ad amici, poi è stata ripresa, e solo in un sito ci sono state, su Arco Iris, quello di Maurizio Chierici, vi sono stati in 10 giorni 400.500 contatti. Senta, Don Farinella, però io voglio capire una cosa. Qui invece di Bagnasco abbiamo avuto Don Sciortino. Invece di una settimana fa c'è stata la famiglia Cristiana, insomma, cosa dovrebbe fare Bagnasco, insomma, pronunciarsi contro, insomma, questo è impossibile, lei lo sa bene, no? Guardi, il problema è questo, non è tanto che se Berlusconi fosse un cittadino privato potrebbe fare a casa sua tutto quello che vuole, purché siano adulti consenzienti. No? Vabbè, su questo perché finora su non questo non chiarisce mai le questioni delle minorenne, come afferma la moglie. Ora, a noi sembra evidente, a noi di persone di chiesa che frequentiamo, che siamo nell'ambito, ci sembra evidente che c'è una convergenza strategica, tattica, come vuole, tra la CEI, il Vaticano e questo governo. Perché verso questo governo non sono state mai prese posizioni come per esempio l'hanno preso nei confronti di Prodi, perché è bastato che Prodi facesse il dico o avesse l'intenzione di fare il dico, oppure è bastato che si dichiarasse per il referendum un cristiano adulto e ha dichiarato la sua intenzione di andare a votare, che apre di cielo. Addirittura no? Qualcuno pensa che il governo Prodi sia caduto per un complotto in cui la Chiesa ha avuto un ruolo. Io sono convinto che il governo Prodi è stato fatto cadere proprio dalle manovre clericali e clerico-politiche. Beh, detto da lei che è un prete, Farinella, è un po' un paradosso. Ma io lo dico e me ne assumo la responsabilità anche, perché sono solito firmare tutte le cose che dico, che pubblico, anche perché il mio cardinale riceve sempre in anteprima o in contemporanea le cose che scrivo. E che le dice? Adesso aspetto, ho visto il suo segretario e mi ha detto, gli ho chiesto, ma mi meraviglio che non mi cerchi e non mi chiami nemmeno, perché se mi sembra che sia opportuno. Le dice, guarda, ha visto, ha letto, ha visto in internet e sono informato che ti chiamerà. Quindi io aspetto che mi chiami e avremo un bel colloquio, penso. Vabbè, insomma, lei sostiene una cosa, Farinella, che è interessante, cioè che siccome questo governo ha con la Chiesa un legame molto stretto per diversi motivi, eccetera, eccetera, insomma, si trovano bene a negoziare sulle cose, non è un delitto. Sì, succede. Non ha un rapporto stretto con la Chiesa, ce l'ha con la gerarchia. Sì, con la gerarchia, vabbè, insomma, è una cosa io quello intendevo. Sì, siccome è così, allora non viene da parte delle alte gerarchie ecclesiastiche una parola dura nei confronti dei comportamenti privati di Berlusconi. Perfetto, allora comportamenti non privati. Beh sì, comportamenti privati che lo stesso Presidente del Consiglio ha reso pubblici addirittura in televisione. Però lei ha detto una cosa in un'intervista ieri ad Iceberg, la voglio fare riascoltare perché è molto particolare, poi lei insomma dice le cose, insomma non ha peli sulla lingua, sentiamo. Berlusconi confonde la democrazia con il populismo, cioè il consenso non vuol dire essere autorizzati a fare quello che si vuole. Lui non può dire io sono fatto così, se è fatto così o si fa castrare oppure trova una soluzione, oppure si fa le docce fredde. Oggi leggo sul giornale che la Daddario, la notte in cui è stata con lui, le faceva fare le docce fredde, quelle si prese il raffreddore. Don Farinella, insomma, la castrazione, le docce fredde, insomma. Sì, ma vabbè, queste sono battute perché sono battute, però il problema è grave, perché noi ci troviamo con un Presidente del Consiglio che è evidentemente malato. Ah, lei lo dice così, esplicito, è malato. Sì, io lo dico esplicito perché è evidentemente malato. E chi l'ha detta questa cosa? Chi la conferma questa cosa? Chi lo può dire? Chi lo può dire? Un medico? Chi lo può dire? Lo può dire tutti, per esempio, scovate gli psicologi e i neuropsichiatri che studiano il comportamento di Berlusconi e fatevi dire qualcosa. Malato di che, secondo lei? Ma secondo me è malato prevalentemente a livello psicologico, è malato di narcisismo, che ha un ego così palmato che lui è il padre eterno. Vabbè, a parte questo, solo di questo, oppure anche sessualmente? No, cioè, ma basta semplicemente questo atteggiamento suo in cui fa tutto lui e non lascia spazio a nessun altro, che siamo di fronte ad una mente deviata. Ma sessualmente pure, Ascolti, e poi più prova di questa, la stessa moglie ha detto che ha parlato con gli amici più intimi per dirgli di trattarlo come un malato. Significa che lei deve avere anche degli elementi molto concreti, e poi questi comportamenti così plateali e così un Presidente del Consiglio, insomma. Senta, lei lo conosce Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria? Io non lo conosco direttamente, ma lo sento. Ma beh, Radio Maria... Siamo nel delirio. Addirittura nel delirio. Sì, siamo nel delirio perché... Ma lo sa che è molto ascoltato, molto sentito? Lo so che è molto ascoltato, lo so, so anche qual è la sua utenza di ascolto. Lui dice che c'è anche il perdono, dice, no? Sì, d'accordo, però il perdono deve essere a determinate condizioni, perché se una persona si va a confessare ci devono essere dette, non è che basta dire di due padri nostri e sei a posto, perché insomma questo diventa veramente una bulletta. E il fatto che i vescovi non dicano nulla, allora devono mettersi d'accordo con se stessi, o tacciano sempre a livello di principi non negoziabili, a livello di principi morali, perché ad ogni piè sospinto parlano sempre di principi e di valori cristiani, di radici cristiane, o non parlano più di queste cose, oppure se parlano ne devono parlare sempre con coerenza. Ho capito, Don Farinella, io voglio capire una cosa. Secondo lei, insomma, la cosa che lei rimprovera maggiormente da prete, insomma, attivo anche politicamente, perché lei, insomma, è la collusione dei vescovi con questa destra pagana. Con questa destra pagana, perché sono Berlusconi non crede, non crede assolutamente in niente, forse non crede manco in se stesso, perché crede nell'immagine che lui ha. Però mi scusi, lei contesta, oltre che questa collusione di cui parla, il fatto che Berlusconi sia alla fine uno zozzone, questo che lei contesta a Berlusconi? Ma no, ma guardi, lo zozzone perché in quanto Presidente del Consiglio, ma non in quanto persona, se lui fosse come individuo, sì, se lui non fosse da Presidente del Consiglio non può essere uno zozzone? No, non dico questo, se lui non fosse andato porta a porta a dire, a giurare sui suoi figli e i giorni dopo a dare quattro versioni dello stesso fatto, per cui per la Chiesa Cattolica è uno spergiuro, addirittura è uno spergiuro per la Chiesa Cattolica, perché uno che giura sui suoi figli e dice una versione, dopo due giorni, tre giorni, quattro giorni dice altre tre versioni dello stesso fatto perché non reggevano in piedi, è uno spergiuro. Senta, ma voglio dire, al di là di questo, bugie, non bugie, tutto poi da dire, lui poteva fare quello che ma sui, comporta, sui che suoi vuole. Comportamenti, lei cosa ha da ridire sui suoi comportamenti? Sui suoi comportamenti dico semplicemente che non può varare una legge sulla prostituzione e poi lui vivere di prostituzione. Vabbè, ma non è sicuro, amica. Lui dice, lui nega di aver pagato qualcuno. Vabbè, lui nega, lei però le altre dicono diversamente. Cioè, lei crede di più, per esempio, a Patrizia D'Addario che a Berlusconi? Il suo avvocato, che tra parentesi paghiamo noi in quanto parlamentare, ha parlato di utilizzatore finale. Lei, Farinella, è uno splendido interlocutore, perché è uno che ribatte colpo su colpo, mi sembra un politico quasi, non un prete della diocesi di Genova, è spettacolare. Vabbè, questo è cosa valuti lei. No, ma lo dico con... Non mi tocca. No, sono indignato come cittadino, perché l'essere prete non significa che sono avulso e disincarnato dalla realtà e dalla storia in cui vivo. No, ma per carità, nessuno dice il contrario, no, perché assolutamente io ho il senso delle istituzioni e vorrei che il Presidente del Consiglio le rispettasse e non facesse queste cose, cioè che lui se voglio dire, lei dà per sicuro che Berlusconi vada con le minorenni e si... Vabbè, fino adesso non ha risposto alle su questo ha risposto e paghi le prostitute e su queste, sì, su queste due cose, ma senza contraddittorio. Vabbè, ho capito, uno più di negare che può dire, non ho pagato nessuno. Certo, allora anch'io nego tutto, scusi. Lui se fosse in tribunale avrebbe il diritto di avvalersi di non rispondere. Però quando gli si fanno delle domande pubbliche, lui avrebbe dovuto chiamare quello che ha scritto le domande della pubblica e avere un contraddittorio con lui, perché deve essere contestato sui fatti, perché altrimenti diventa effettivamente, noi gli riconosciamo una divinità sovrumana perché basta la sua parola. Non è mica il digestivo Falqui. Beh, con questo concludiamo. La ringrazio molto, Don Farinella. Grazie. La richiamerò spesso se lei vuole. La richiamo spesso. Come? La richiamo spesso se lei quando fa vuole. 19, basta che lei faccia le domande e mi dia il tempo delle risposte. Come ho fatto, mi sembra. Non abbiamo titoli perché TG1, TG5, non so la 7. La 7 non si sa, fra poco ve lo diremo. Non hanno fatto titoli. Io non capisco quando c'è una grande tragedia questa fissazione di non fare i titoli, come se si dovesse presentare questa cosa come l'apocalisse. Per carità, è una tragedia incredibile, però ci sono anche altre notizie oggi, altre cose di cui parlare. Vabbè, a parte questo, 800 24 00 24, moltissimi messaggi sull'intervento di Don Paolo Farinella. Vi prego di mettere come sigla nuova il digestivo Falqui. Un altro ancora, richiamatelo, speriamo che il vescovo chiami in fretta questo prete pazzo, Andrea. Ma questo prete quando lo scomunicano? Fabio da Vicenza. Don Farinella papa subito, mi scrive un altro. E ancora, finalmente un cristiano con la schiena dritta, ce ne fossero di persone come Don Farinella, Matteo da Modena, eccetera. E viva questo prete, finalmente un prete che parla chiaro sulla Chiesa, un grande, questo prete ha le palle. E poi ancora, povera Chiesa con questo, con questi preti, Giovanni, eccetera, eccetera. Naturalmente la Chiesa non è Don Farinella, ma questo è ovvio. Carlo da Roma. Buonasera. Prego. Io volevo avvicinarmi al discorso che ha fatto, all'intervento che ha fatto il tecnico della Protezione Civile, che è una persona che si occupa di emergenze e che sì, sta anche a caldo, nella pessima espressione a cadaveri caldi. Effettivamente la visita del Presidente non è stata una mossa politica interessantissima, strepitosa, perché noi abbiamo una struttura di protezione civile che poteva benissimo resocontare tecnicamente cosa è successo. O lui andava a Viareggio a dare l'esempio e a spalare le macerie e avrebbe portato in una situazione di emergenza di questo tipo un contributo propagandistico, sì, ma comunque vado lì per dare una mano. Ma andare a dare una mano quando lui rappresenta la metà del paese e l'altra metà lo fischierà sempre, per lui è, purtroppo è un prezzo che dovrà pagare se continua, da questo punto di vista, a comportarsi e andarsi a prendere la sua dose di fischi che a lui lo impreziosisce, perché lui è fatto così. Metà del paese lo ama, metà del paese lo odia. Finché il paese è spezzato a metà, è fratturato a metà, non si potrà aspettare che null'altro. Se avesse fatto parlare un Bertolaso che ha una credibilità totale e immensa, non ci sarebbero stati questi problemi. Ma cosa vuole che le dica, Carlo? Se la va a cercare, è gratuito, perché poi effettivamente con una situazione ancora esplosiva, perché si sta lavorando, andare con un corteo, con un codazzo sul posto, è comunque una cosa gratuita. Non ce n'era bisogno, il paese non ha bisogno di spettacolarizzare una disgrazia, una situazione. Avrebbe potuto dire: abbiamo rischiato le catombe perché due treni sono stati fermati dal pronto intervento del personale di stazione, altrimenti erano le catombe. Poteva essere una cosa gestita con molta più tranquillità nella situazione della sciagura. È chiaro che poi se il Presidente della Repubblica ieri ha detto evitiamo di andare a scatenare situazioni sotto il G8, lui va a Napoli, viene fischiato, perché è chiaro che metà del paese lo fischierà nel momento che il paese è spaccato a metà. Da lì viene fischiato e dice questa è la sinistra. Va a Viareggio, viene fischiato e dice ah, così così. No, veramente non ha detto nulla su Viareggio. Comunque, Carlo, no, guardi, fischiato ugualmente. Sì, sì, no, io sono ho sentito con molta attenzione quello che lei ha detto e non condivido neppure una virgola. Mi dispiace, ma insomma è così. Fa parte del dibattito. Io penso che sia una cosa incivile, a parte che in genere le contestazioni di piazza, le grida buffoni, oggi c'era anche un parlamentare dell'Italia dei Valori lì in piazza a protestare, da parte di chiunque vengano queste cose, a me fanno orrore. Si figuri quando c'è una situazione con i morti là vicino e qualcuno perde tempo ad andare a contestare il Presidente del Consiglio a Viareggio. Roberto da Genova. Sì, pronto? Dica. Sì. Salve, io sono un tecnico della logistica del GPL e mi sono occupato di trasporti di gas su gomma, su ferrovia e anche su nave. Il problema è sempre il solito, nel senso che sarà salvaguardata la forma, nel senso che tutti i certificati di collaudo previsti dalle norme RID saranno tutti a posto, come sempre, mentre nella sostanza nessuno ha mai verificato niente. Io mi sono trovato a dover gestire situazioni veramente imbarazzanti, dovute al fatto che comunque queste ferrocisterne che arrivano di solito da ogni parte del mondo, che girano su ferrovia, si trovano con tutti i documenti a posto, ma nella sostanza sono veramente delle bombe a orologeria. Questo perché purtroppo, come sempre, siamo tutti ormai, diamo più importanza alla forma che non alla sostanza delle cose. Cioè, secondo lei la documentazione sulla sicurezza di questi treni potrà essere pure formalmente a posto, però in realtà la sostanza è che non si fa la manutenzione. Nessuno ha mai guardato quelle cose lì e probabilmente ci saranno poche persone che sono in grado di capire veramente se una ferrocisterna è in grado di viaggiare con sicurezza in ferrovia rispetto a tecnici che mettono un foglio e poi chissà chi se ne frega. Perché ho capito, Roberto, la questione è molto complessa, certamente. Chi è che fa i controlli? Ci sono aziende straniere che hanno in mano il trasporto di alcuni carri merci. Come viene fatto il controllo in questi paesi, quali sono i vari passaggi? Ecco, appunto, sono cose talmente complicate, talmente poi importanti da verificare, che ancora non si può dire nulla. Lei ci dice la sua da operatore della logistica GPL, dice che insomma le cose sono magari sono formalmente a posto, però i controlli difficilmente si fanno in maniera seria sui carri, no? Dice lei, Roberto, cioè sui vagoni. Sui vagoni e sulle cisterne che viaggiano su gomma, e anche sulle ferrocisterne che viaggiano su nave. Io mi sono trovato a dover gestire un carico per l'Africa con tutti i documenti a posto, ma quando sono andato per una piccola ispezione, perché c'era un problema di etichettatura sulle ferrocisterne, queste stavano in piedi col fil di ferro. Una cosa abominevole. D'accordo, la ringrazio, Roberto. 28 minuti, Nazareno da Viterbo, buonasera. Buonasera, io credo che sia sottoscrivibile tutto ciò che ha detto Don Farinella e anche l'ascoltatore di Roma che prima lei ha citato e non condivideva nulla di ciò che ha detto. Io credo che la visita di Berlusconi sia stata inopportuna nei tempi e nei modi, soprattutto perché è preceduto da quell'affermazione «vada a Viareggio e prendi in mano la situazione». Secondo me la ritengo anche offensiva per le centinaia di soccorritori qualificati, vigili del fuoco, medici, operatori sanitari, cittadini di Viareggio, l'amministrazione, che stavano tutti impegnati su questa vicenda. Questo signore da Napoli parte, vado a prendere in mano la situazione, non si capisce il senso se non il fatto di dover apparire a tutti i costi. Arriva lì, fa una conferenza stampa sullo svuotamento, il gas, il riempimento, la cisterna, la cosa. Secondo me, vuol dire, lui ha i suoi momenti, i suoi modi, ci saranno un lutto cittadino, ci saranno dei funerali, credo che il momento opportuno fosse stato quello per Berlusconi di partecipare, magari di occuparsi da qui a quella data di mettere in campo quali interventi economici per recuperare al disastro alle famiglie che hanno perso congiunti, alle famiglie che hanno perso la casa, eccetera. Questo era un po' il modo. Va bene, Nazareno, per me io credo che questo signore ormai sia malato di megalomania. Eccoci, Fabio dalla provincia di Pavia, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Io volevo fare un attimino una considerazione personale da cittadino su questa continua ossessiva attenzione dei media, di tutti attorno a questo signor Berlusconi. C'è stata una tragedia terribile a Viareggio oggi e non mi sembra che tutta l'attenzione debba ritornare nuovamente, da mesi ormai non se ne può più, anche da parte vostra, dei giornalisti, dei media, intorno a quello che fa o non fa, come si comporta, come non si comporta il Presidente del Consiglio. I fatti sono questi, secondo me l'accento in questo momento va puntato contro chi è responsabile delle ferrovie dello Stato, perché noi viviamo in un paese dove le ferrovie sono al collasso. Io le confesso che da pendolare tutti i giorni devo fare un calvario per ritardi spaventosi, carrozze sporche e quant'altro. La linea alta velocità La settimana scorsa è stata bloccata, il 22 di questo mese, lunedì 22 giugno, per un deragliamento fra la Firenze e Bologna, un deragliamento di un altro treno merci che per fortuna non ha creato inconvenienti seri. Quindi soltanto 8 giorni fa era deragliato un treno merci fra Firenze e Bologna, bloccando tutta la linea. Io vorrei sapere, a questo punto, si lascia correre un treno nel centro di Viareggio con 14 vagoni più o meno assemblati alla buona e meglio, e io vedo che si parla solo se Berlusconi è andato o non è andato a Viareggio, che ha fatto. Qua la responsabilità anche legale di qualunque azienda, come è stato per la ThyssenKrupp di Torino per la tragedia degli operai morti carbonizzati, la responsabilità deve essere a questo punto di chi gestisce le ferrovie dello Stato, del gruppo manageriale, dell'amministratore delegato Moretti, i quali, per dare assoluta priorità a quest'alta velocità, che poi alta velocità non è rispetto a quella che è l'alta velocità nel resto del mondo e negli altri paesi europei, hanno tralasciato completamente tutto il comparto e tutto il materiale rotabile, che è disastroso. Lei provi a prendere un treno per andare dopo Napoli in Calabria o in Sicilia. Sì, però Fabio, lei si sta allargando. È una porcheria. Sì, Fabio, lei sta... A questo punto, questo treno si lascia viaggiare con 14 vagoni pieni di gas in piena notte a quella velocità nel centro cittadino, perché la stazione a Viareggio passa accanto alle case. Fabio, si fermi un attimo. È assurdo. No, ma è assurdo che cosa? Quei treni evidentemente non è la prima volta che viaggiano al centro di Viareggio. E che cosa dovevamo aspettare? Che passassero in una maniera ancora più eclatante nel centro di un'altra città, uccidendo migliaia di persone? Sì, lì c'entra il fatto che sia un treno con 14. In quelle condizioni un carrello si spacca. Questo, il problema appunto è questo, non che passi a Viareggio, che ci siano 14 vagoni con il gas GPL, perché... Sì, ma per la questione sicurezza io non credo sia un buon sistema far passare comunque del GPL ad alta pressione nel centro di una città con un treno. Secondo me non è una buona idea. Fabio, allora decidiamoci, o ci vuole il trasporto su ferrovia, e necessariamente il trasporto su ferrovia passa... Ma quale ferrovia, mi scusi? Sì, con questa ferrovia no, grazie. Con questa ferrovia quale, mi scusi? Con questa ferrovia quale? Con le ferrovie italiane, con guardi le ferrovie che dello in questo Stato, caso, che sono ridotte in questa maniera. Sì, ma in questo caso il discorso sarebbe molto lungo su come sono gestite adesso le ferrovie italiane. Non è una fatalità, perché è una cosa continua. La settimana scorsa per poco non morivano un sacco di persone. Sì, però Fabio, bisogna concentrarsi su altre cose, su quello che riguarda il trasporto merci in Italia, come viene gestito. Lei sa che molti dei vagoni non erano di proprietà delle ferrovie italiane, bensì alcuni delle ferrovie tedesche, altri delle ferrovie polacche, insomma di gruppi vari che si incaricano del trasporto. La responsabilità legale di chi li tiene sul territorio nazionale, lo sa benissimo. Sì, ma non è in questo caso non è io responsabile, sì, anche ma... dei vagoni tedesco. No, ma il problema non è di rete in questo caso, non è di macchinisti, eccetera. Il problema è stato probabilmente di manutenzione del vagone incriminato, quello che ha fatto deragliare gli altri. Al di là poi delle questioni legali, perché tutto si è svolto sul territorio italiano. Un po' per riassumere, perché altrimenti sembra che non diciamo le cose. La cisterna da cui è fuoriuscito il gas apparteneva alla società internazionale GATX, GATX, con sede europea a Vienna. Il vagone, come detto in precedenza, avrebbe subito un cedimento strutturale, si sarebbe rotto un asse, ed è proprio la società con sede a Vienna, sottolineano fonti qualificate, che deve assicurare la revisione di tutti gli elementi strutturali, una tesi però respinta dalla stessa GATX. Secondo Mitteregger, numero 2 della GATX a Vienna, la società cui appartiene il vagone si limita all'affitto dei mezzi ferroviari, gestiti poi dai clienti finali, che sono poi responsabili delle sostanze trasportate e della gestione del mezzo. Dunque c'è già una diatriba su chi sia responsabile del trasporto. Questo Mitteregger sottolinea che poi la società, la GATX, azienda leader nel settore, affitti i vagoni cisterna con contratti di varia durata. Il dirigente assicura che sono sempre mezzi relativamente nuovi, che vengono debitamente controllati prima di essere consegnati al cliente che li prende in affitto. Dopodiché spiega, è come quando si affitta un'auto, in altre parole la responsabilità della manutenzione e della gestione del mezzo ricade su chi l'affitta. Ora bisogna vedere naturalmente chi ha affittato il vagone, e poi vedere se questa società ha fatto tutti i controlli necessari. Giuseppe da Genova, buonasera. Senta, io ho seguito attentamente la sua ultima esposizione dei fatti, che mi sembra molto soddisfacente, perché in fin dei conti ci indica come il sistema economico globalizzato vada sempre più in questa direzione, cioè c'è un proprietario dei vagoni, c'è un utilizzatore finale, c'è una... Oh, scusi, ho usato la parola utilizzatore finale senza nessuna polemica. Scusi. No, ecco, ritornando al sodo. Siccome queste situazioni statisticamente si possono verificare, purtroppo si verificano spesso anche con delle merci non pericolose, come altre sostanze inerti magari, io vorrei riequilibrare un attimino il discorso, perché sarebbe utile non dare sempre addosso, sempre a chi è facile bersaglio in queste situazioni. Le ferrovie italiane stanno superando forse un problema serio con l'alta velocità, sarebbe utile che però si indirizzassero degli sforzi seri anche sul sistema di trasporto merci e passeggeri, diciamo, regionale. A questo punto io dico solo che le polemiche sui politici che si recano sulle zone dei disastri siano sterili, non è una photo opportunity necessariamente, anzi è un gesto che io effettivamente ho apprezzato sia sul terremoto all'Aquila che anche in queste situazioni. Giuseppe, io la penso come lei, ma non perché, vede, anch'io insomma rifuggo da chi va là a fare passerella, a fare dichiarazioni, le telecamere, e sicuramente è accaduto anche in Abruzzo, ma non vedo perché andare lì sul luogo del disastro a Viareggio debba essere considerata un'eresia, un intralcio, come ci ha detto qualcuno, un intralcio ai soccorsi, come se la sorte dei poveracci rimasti sotto le macerie lì a Viareggio dipendesse dal fatto che Berlusconi va o non va. È andato per qualche ora insieme a Bertolaso, punto. Io credo che sia assolutamente normale di fronte a una tragedia di questo tipo. Pensi lei, se non fosse andato, avrebbero detto avete visto, il Presidente del Consiglio se ne frega dei morti, Viareggio non è venuto qui, e poi proteste sicuramente il sindaco della Regione Toscana, il Comune di Firenze, il Comune di Viareggio, dico. È così, l'Italia va in questo modo. L'onorevole Franco Barbato dell'Italia dei Valori, buonasera. Buonasera a voi. Onorevole Barbato, ma insomma leggo da qualche parte che lei è stato protagonista, addirittura è intervenuta la Digos di una specie di rissa o presunta tale insieme ad alcuni esponenti del PDL, perché lei è andato a dire buffone al Presidente del Consiglio a Napoli oggi. Che è successo? È successo che a Napoli è iniziata stamattina la rivolta dei buoni, perché a Napoli e nel Mezzogiorno ormai non se ne può più. Non se ne può più di una politica di titoli, di una politica di spot. Guarda, in materia economica, in materia di sviluppo, noi oggi alla Camera stiamo ancora lavorando sul 1441 ter, ovvero si parla di aiuti alle imprese. Ieri l'altro, il ministro Tremonti ha proposto un altro provvedimento anticrisi. Cioè, dallo scorso anno ad oggi si susseguono a mitraglia provvedimenti sulla crisi, provvedimenti economici, ma sono solo titoli. No, mi scusi un attimo, onorevole Barbato. Adesso il governo ha presentato un decreto che è stato valutato in modo diverso, chi l'ha valutato positivamente, chi ha detto che ancora non basta, eccetera. Non è che ci sono solo titoli, non è che ci sono solo spot, ci sono dei provvedimenti che alcuni considerano efficaci e altri considerano meno efficaci. Però io quello che no, ma al di là del discorso di merito, non stiamo qui a fare un discorso di merito se i provvedimenti sono efficaci o no. La cosa che mi sorprende è che un deputato della Repubblica vada dietro una transenna a dire buffone al Presidente del Consiglio. Per carità, tutto si può fare nella vita e l'opposizione si può fare in mille modi. Ma insomma è un po' un gesto alla Pietro Ricca, se lo ricorda lei, no? Ricca. Guardi, questo è il gesto di tutti i napoletani, di tutti i lavoratori. Ma veramente tutti i napoletani non si può dire, perché la voto alla provincia di Napoli mi sembra sia andato diversamente, se proprio vuole una risposta secca su questo, ma lasciamo perdere il voto che non c'entra niente. Ha ragione, perché fino a poco fa andava di moda Berlusconi, anche per presidente di un condominio si metteva il nome di Berlusconi, perché in Italia forse funziona così, c'era una moda. Ora che la moda fatta solo di spot, ripeto, e di titoli, sta venendo... No, ma lei non mi risponde, però Barbato, lei non mi risponde. Che secondo lei sta crollando Berlusconi? Vabbè, lo vedremo questo. Vabbè, ma lo vedremo se sta crollando o non sta crollando, può darsi. Ma io voglio capire, secondo lei, un parlamentare della Repubblica può andare dietro una transenna a dire buffone, vattene? Sì, perché sono tutti lavoratori della Fiat di Pomigliano d'Arco che glielo vogliono dire. tutti i lavoratori della Tirrenia Navigazioni che erano lì, dell'Atitec, dei movimenti dei disoccupati che sono stati completamente tagliati fuori, che vogliono delle risposte concrete per il Mezzogiorno d'Italia, sì, perché è stato tradito il Mezzogiorno d'Italia. 18 miliardi e mezzo di euro che sono stati tagliati dai fondi FAS, che erano per il recupero e per il divario del gap che esiste tra il Mezzogiorno ed il resto d'Italia e d'Europa, sono andati via. Allora, hanno tolto denari che servivano per l'infrastruttura. Vabbè, al di là di questo, al di là del merito, però, Barbato, mettiamo pure che sia così. Mettiamo che sia così, anche se la discussione. No, ma mettiamo che sia così. Questo giustifica il fatto che si deve andare a fare caciara? Non si fa caciara, gli diciamo cose che non possiamo dire per televisione, perché controlla. Cioè, buffone non glielo potete dire per televisione, lei glielo può dire alla camera. Perché lui sta prendendo in giro sta tradendo sull'economia, sul lavoro, sull'occupazione. Vabbè, ma questo qua è come dire, oggetto di discussione il fatto che stia tradendo o che non stia tradendo. Sai una cosa, Barbato? Io credo che le manifestazioni di persone a Napoli preoccupate per la disoccupazione, diciamo, chiamiamole pure manifestazioni dei disoccupati napoletani, così tanto per mica per bistrattarli, per carità, ma per chiarirci le idee, per essere più chiari nei confronti degli ascoltatori. Io credo che esistano da tempi immemorabili e credo che non ci sia stato ministro, presidente del Consiglio di centro-sinistra, di centro-destra, guarda, che non ha subito. I disoccupati, là c'erano i lavoratori della Fiat Pompiano, per cui vabbè, industriale. Sì, ho capito. Cioè, a parte che la Fiat, che cosa c'entra con la Pompiano. Scusi, allora se la prendessero con Marchionne, casomai. Marchionne, perché Marchionne, come gli altri capi di governo, hanno sostenuto le loro imprese nella trattativa Fiat. Il governo italiano è assente, perché il governo italiano non ha una politica industriale. È su questo che sta crollando Berlusconi, sulla politica economica, sulla politica dello sviluppo, sulla politica dell'occupazione. Vabbè. Nel primo trimestre del 2009 abbiamo 204.000 disoccupati, ci dice l'Istat. Sì, Barbato, sarà pure così, però a me non sembra così, ho una piccola impressione, a me non sembra che Berlusconi stia crollando, così ho questa sensazione dai risultati elettorali, però so, magari non è così. Crollando su tutta Napoli o sulle inchieste giudiziarie. Cominciamoci a capire perché si sta mettendo addosso questo manto di vittima dove tra i magistrati, i comunisti che lo vogliono assaltare. Ma su che cosa? Sull'economia sta crollando? La su che cosa? Sanizia che viene a dire, sono cose gravissime perché mi sorprendo. No, non ho capito, su che cosa che sta crollando secondo lei? Sulle... Dovrebbe avere un. Vabbè, Barbato, non mi ascolta, si sente anche male. Si sente male, Barbato, si sente male. Si sente male, la sua telefonata è disturbatissima. Le chiedo una cosa per concludere. No, adesso si sente bene. Senta, lei ha detto una cosa ieri sera ad Iceberg che mi ha colpito molto, mi ha fatto anche un po' ridere. Ora si può dire tutto, no? Berlusconi, il terremoto, la gestione positiva, negativa, lo vedremo. Le case saranno costruite, non saranno costruite in tempo, non lo so, sono polemiche che forse è troppo presto per affrontare. Lei ha detto però, lo facciamo riascoltare un attimo, le dentiere, fino adesso il governo ha regalato solo le dentiere, forse nemmeno quelle, sentiamo. Berlusconi ha fallito su tutte le questioni che riguardano gli italiani, sull'economia, sullo sviluppo, sull'occupazione, ha tradito gli italiani. In Abruzzo sapete Berlusconi che ha fatto finora? Ha dato una dentiera ad una vecchietta, questo è l'unico provvedimento che ha fatto per l'Abruzzo. Barbato, ma insomma. La verità, guardi, perché in Italia si sta cancellando la concorrenza, la competizione tra le imprese. Me l'ho detto stamattina ad un convegno dell'Associazione Nazionale Magistrati a Napoli. Cioè, lei che ha fatto? È andato ieri sera a Iceberg, poi all'Associazione Magistrati a Napoli e poi a contestare Berlusconi in piazza. È straordinario. No, io non contesto, io sostengo i cittadini, sostengo i lavoratori. Vabbè, ha dato le buffone al presidente del Consiglio in piazza, va bene, lo stesso, per carità. Glielo dirò altre 10.000 volte se continua a fare. No, mi spieghi la storia delle dentiere, mi scusi, perché insomma. Lo spot che fece quando andò lì con quella vecchietta che non aveva la dentiera e lui gliela procurò. Allora, le pare che un presidente del Consiglio si limita a ciò, perché poi la verità sa qual è? Le dico il problema economico qual è. Vabbè, ma gli aiuti sul terremoto sono una cosa un po' più complessa delle dentiere. No, l'aiuto sul terremoto si sta trasformando semplicemente in un business per gli amici e per gli amici degli amici. Cioè, in pratica si sta eliminando la concorrenza, bandi di gara, la competizione tra... Cioè, tutti gli amici di Berlusconi stanno facendo affari in Abruzzo, secondo lei? Sì. No, come li hanno fatti alla Maddalena, come li hanno fatti in Sardegna. Vabbè, come ho capito. Poi me lo spiegherà meglio, Barbato. Ne parleremo un'altra volta dei conflitti di interesse di Berlusconi alla Maddalena e in Abruzzo. Eccoci, 20:32, finalmente i titoli di qualche telegiornale, il TG2 che non manca mai, perfetto, lì puntuale, titoli. È di almeno 14 morti il bilancio provvisorio della tragedia di Viareggio, decine i feriti, centinaia gli sfollati. Ora si lavora alla messa in sicurezza delle cisterne con il GPL ancora sui binari. Berlusconi visita la stazione e annuncia lo stato di emergenza. Un Airbus A310 della compagnia Yemenia, partito da Parigi, precipita al largo delle isole Comore. 153 morti, miracolosamente si salva solo una 14enne. Da domani nuova riduzione per le bollette di luce e gas, 212 euro di spese in meno per le famiglie. E dal decreto anticrisi in arrivo altri benefici. Tremonti, solo dal taglio delle commissioni bancarie risparmi per 2 miliardi. Allora, volata finale fino alle 20:45, 800 24 00 24, da un blog che abbiamo citato molto oggi, anzi no, questa sera si va fino alle 21, me l'hanno ricordato da dietro il vetro, fino alle 21 questa sera, restate con noi, mi raccomando. Dal blog che abbiamo citato molto questa sera, con i 13 morti ancora caldi, con i 34 feriti, con 4 persone, poi i morti sono diventati purtroppo 14, comunque con 4 persone di cui ancora non si sa nulla, con il disastro di uno scenario apocalittico, con le fiamme che sembravano l'inferno, ecco, se alla notizia della visita del Presidente del Consiglio che va là sul posto all'inferno, e questo è quello che francamente mi aspetto dalle istituzioni, da chiunque rappresentate, ecco, se voi, quattro esseri inqualificabili, sfruttate questa tragedia per andare a contestare la vostra ossessione di una vita, siete semplicemente delle persone indegne di stare al mondo. Siete dei poveracci, dei disturbati, siete umanamente non sostenibili. Emanuele da Viareggio, buonasera. Buonasera, dottor Cusciani, scusi un po' l'emozione, che è la prima volta che chiamo una radio. Comunque, io le volevo portare la mia esperienza, perché oggi mi sono trovato lì in Piazza del Comune, dove è chiaramente arrivato il Premier, e all'inizio c'è stato molta enfasi, molti applausi, poi un branco di 3, 4, forse anche 10 persone hanno iniziato a contestarlo, è partito, dopo si sono lasciati trascinare anche gli altri, anche quelli che prima applaudevano hanno iniziato a gridare i buffoni. Io mi sono girato verso persone che prima applaudevano chiedendogli: ma come mai ora prima applaudite e invece adesso gridate i buffoni? Perché ogni occasione è quella buona per contestarlo. Cioè, io non sono un elettore di centrodestra, sono un elettore di centrosinistra, ma mi sono veramente vergognato di quanta pochezza c'è nel centrosinistra. Ogni occasione è buona per dare contro per Vabbè, in questo caso però non è che per forza sia un elettore di centrosinistra. Lei mi ha spiegato anche una certa contraddizione da parte di chi magari prima stava lì e poi, approfittando del fatto che una decina di persone hanno cominciato a fare caciara, è veramente squallido. Cioè, in questa occasione il sentimento che viene fuori è proprio la solitudine quando succede una disgrazia, quando succede, e vedere l'istituzione, il silenzio, anche no, il silenzio, bravissimo. Ma per me, se il premier fosse stato D'Alema, Prodi, Berlusconi, per me non importava, l'importanza era il segno che lo Stato c'era e che non eravamo solo in quel momento, e secondo me è stato molto importante. Poi, al di fuori di chiunque potesse essere il premier, io mi sono vergognato di essere viareggino e di essere anche addirittura un elettore di centro-sinistra per questi fatti che sono avvenuti. Cioè, io voglio dire, è stata la ciliegina di una torta che secondo me si è confezionata già un mese fa, quando ci sono stati dei fatti più importanti di Berlusconi, della sua vita privata, quando Gheddafi è venuto in Italia e nessuno ne ha parlato, quando Berlusconi è andato da Obama e ha preso 3 detenuti di Guantanamo, nessuno ne ha parlato. No, loro si concentrano solamente sulla vita privata di Berlusconi, non fanno un'opposizione costruttiva e si concentrano solo a diffamare lui. Cioè, a me non me ne frega niente di Berlusconi, io guardo quello che fa, poi si può chiamare come gli pare. Invece no, sempre così, bisogna farci riconoscere e fare queste belle figure. Io chiedo scusa a nome dei Viareggini, mi dispiace, ma secondo me è stato veramente utile che lui sia venuto. Poi, indifferentemente... Ha sentito nel corso di questa trasmissione un operatore, un volontario della Protezione Civile dire: beh, insomma, in alcuni casi la presenza dei capi di governo, di ministri, eccetera, può anche intralciare le operazioni di soccorso. Io francamente non lo credo, però... No, secondo me non è assolutissimamente vero, anche perché nella zona lì è stata tutta transennata, è stata declamata zona rossa perché ancora ci sono queste operazioni di travaso del GPL, perché su 13 o 14 convogli praticamente ne è esploso uno solo, e quindi voglio dire ci sono ancora dei pericoli, perché se scoppiava tutti e 14 cadeva al suolo tutta Viareggio, quindi voglio dire è stato abbastanza circoscritto nonostante tutto. la scena è brutta, il paesaggio è bruttissimo, però io, ecco, questo intralcio effettivamente non l'ho constatato personalmente, anche perché io lavoro a circa 300 metri dalla zona in cui è successo, e anzi i soccorsi bisogna dire che si sono mossi molto molto velocemente. Ancora una volta, dopo l'Abruzzo, anche qua effettivamente la macchina degli aiuti sono stati veramente efficienti, almeno questo bisogna esserne fieri. Quindi io, ecco, prendere queste occasioni, sfruttarle, non Berlusconi se sfrutta queste occasioni, ma noi che si sfrutta per andare a diffamare lui, secondo me è veramente sbagliato. Nel momento dei disgrazie non ci deve essere né centrodestra né centrosinistra né niente, bisogna essere tutti uniti e raggiungere uno scopo, poi alla fine dei conti si faranno le dovute considerazioni. Abbiamo un voto, si deve esprimere con quello, non con la cattiveria, con la diffamazione, con quella, secondo me sono cose completamente sbagliate. Bene, la ringrazio. Poi, Emanuele, a Viareggio ci sono 3 giorni di lutto cittadino. Roberto dalla provincia di Cuneo. Buonasera dottor Cruciani, grazie per concludermi l'intervento. Io ho 53 anni, gioco a scacchi, ho visto un po' di vita lavorativa. La mossa vincente e la gratitudine che dovrebbero avere gli italiani nei confronti del centrodestra è quella di aver costruito una stabilità, perché qualsiasi lavoro si può portare avanti solo se c'è una squadra compatta che non si disgrega ogni 5 minuti, creando l'alibi per chi vuol fare man bassa di tutto. Però Roberto, non mi faccio il tifoso e il militante. Ma io le devo fare il tifoso da scacchista, non da... La stabilità è importante, per carità, ma è importante in ogni caso, chiunque ci sia al governo. La stabilità è importante, però io penso... Chiunque ci sia al governo è importante. Sicuramente. Piuttosto che fare attenzione a chi tromba Berlusconi, quella parte... Detto così, papale, diciamo. Papale. D'altra parte lo dice Sgarbi, perché non può dirlo lei? Ma difatti mi prendo questo diritto, ma dico, è sicuramente molto più importante fare attenzione a non essere trombati da chi, facendo finta di tutelare i deboli, continua semplicemente a premiare i delinquenti, l'inefficienza. A chi si riferisce lei, mi scusi? Mi riferisco ovviamente alla cultura di sinistra. Vabbè, insomma, lei sono i sindacati e le sinistre. Vabbè, ma lei ci ha chiamato qui per fare un po' di propaganda, di propaganda per il PDL, va bene, capita anche questo, però insomma cerchiamo di essere un po' più concreti, insomma, di dire anche qualcosa di, per carità, anche corrosivo, provocatorio, senza fare comizi. Barbara da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Dovrei dire molte cose, però devo sintetizzare ovviamente. Se vuole, se ci fa questa... Perché si può parlare di tanto, cioè, allora, due cose sole. Questo aver, diciamo, fatto virare la trasmissione sulle contestazioni a Berlusconi non mi trovo per niente d'accordo, perché sinceramente... Ma che vuole, che io mi metta a fare una trasmissione sui problemi tecnici delle società, le cose, la manutenzione dei treni, è tutta la giornata che ne parliamo. Una persona molto intelligente. Ma è tutta la giornata che ne parliamo di queste cose, Barbara. No, allora va bene, cambiamo argomento. Il blog, allora, quel ragazzo, perché dalla voce sicuramente era un ragazzo, quindi giovane, cioè quelle parole che sono state sentite, risentite, cioè di indignazione, sentite e risentite mille volte dopo tragedie e catastrofi varie, dov'è la novità? Nessuna. Sa quale sarebbe stata la novità? Evitare che queste cose accadano, evitare che ci si trovi di fronte a un panorama apocalittico da film di Spielberg o da paesi dell'India dove i treni con i gas saltano ogni 2 per 3. Però mi scusi Barbara, qui c'è la fissazione, non dico sua, per carità, che tutto sia evitabile. Io adesso non lo so, può darsi pure che la manutenzione non sia stata fatta bene, che... No, ma io non sto dicendo che era evitabile, qui c'è anche fatalità, non lo metto in dubbio. Però allora, vogliamo parlare del terremoto, dove lì la fatalità dov'è? Dove palazzi rimasti interi in piedi? Ma quello è un altro discorso, C'è tutta una spiegazione tecnica. Siamo in un paese dove, siamo nel terzo millennio, si va a trovare l'acqua su Marte, si trovano i soldi per trovare l'acqua su Marte, e poi non si trova in qualche modo la possibilità di evitare queste tragedie, perché no, possono anche succedere, ma è chiaro allora che parte poi la contestazione di chi si trova davanti a un'istituzione, seppure il signor Berlusconi, secondo secondo me si fa vedere solo in quanto Silvio Berlusconi, perché lui è Silvio Berlusconi, poi è anche Presidente del Consiglio, ma lui si sente più Silvio. Questa non l'ho capita, comunque. La gente parte e parte, perché di fronte a una scena del genere, come ti fa un momento umano, dici, ma non è possibile che sia la realtà, invece... forse è un film, non lo so, Barbara, un film, sa, insomma, certamente i racconti che abbiamo sentito sono terrificanti su quello che è avvenuto, da qui a prendersela con il presidente, io credo che le contestazioni ci sarebbero state in ogni caso negli ultimi 3 settimane, 4 settimane e non solo. Berlusconi è accompagnato continuamente da gruppi di contestatori, va benissimo, per carità. Quello che mi ha colpito oggi è proprio mentre si scava per trovare cadaveri ancora caldi, c'è un gruppo di persone che si scatena con le solite cose contro il Presidente del Consiglio. Questo mi ha colpito. Gli appelli di Napolitano ne può fare 20.000, se anche voi giornalisti, parlo della categoria, o comunque in questa trasmissione peraltro interessantissima, qual è la notizia? È prendere il blog che attacca e si indigna per le contestazioni e non si prende altro. Prendere che ora sono tutti molto bravi e di sicuro lo faranno, non lo dico con scherno, a risolvere il problema e quindi a rimettere Viareggio in sesto, a rimettere, sì, sono affezionatissima con la città. Ma come mai siamo sempre tutti bravi a risolvere il dopo? Dicono perché noi siamo italiani, bravissimi. Ho capito, Barbara, però lei dà per scontato, con questo ragionamento, dà per scontato che si poteva evitare questa tragedia. Ancora non lo sappiamo quello che è avvenuto, come è stata fatta la manutenzione a questo. C'è già chi se la prende, come ha sentito, con le Ferrovie dello Stato, che sembrano essere estranee alla questione della manutenzione di questo vagone, poi magari hanno altre responsabilità di altro tipo, non lo so. Per cui, insomma, bisogna anche conoscere le cose prima di dare giudizi tranchant. Perché lei mi dice abbiamo preso le frasi di quel blogger, di quella persona che scrive su un proprio diario quotidiano, così per parlare in italiano e non pronunciare sempre questa parola blogger che magari non viene capita, perché erano molto forti e mi hanno colpito anche insomma sentire il Presidente del Consiglio, mentre ci vorrebbe silenzio, no? In questi casi ci sono le istituzioni che vanno là, ci vorrebbe silenzio, e sentire 10, 20, 30, 100 scalmanati che dicono buffone, buffone, ma lo avessero fatto nei confronti di Prodi, avrei detto la stessa cosa. A me ha colpito particolarmente, ripeto, a cadaveri caldi. Questo è il punto. Barbara, vuole aggiungere qualcosa? Questo è quello che ha colpito me, eh? Sì, lo so, però volevo dire, a parte non si può sapere, probabilmente erano persone che sono state in qualche modo colpite, non credo che siano partiti perché sapevano esattamente alle 3 o alle 4 c'era Berlusconi al municipio. Beh, insomma, le notizie si diffondono sull'arrivo di Berlusconi, Viareggio non è... È una situazione in un'onda emotiva notevole, ripeto, per la irrealtà della situazione, poi immagino devo chiudere, ma io... Di fronte a una cosa del genere, è chiaro che non si può parlare solo di fatalità. Lei concorderà con Cucciani, lei rappresenta... Ma guardi, io non lo so se si può... Ma è possibile che sia successo e che nessuno possa dire no, doveva succedere, non c'era verso di evitarlo. Così come l'Abruzzo. E concludo dicendo che il signor Berlusconi aveva detto, dopo essere stato lui nelle prime in Abruzzo, aveva detto si prega di evitare le passerelle dei politici. Quindi questo per rifarmi al... Cioè, mi scusi un attimo, Barbara, secondo lei non doveva andare lì oggi? Io non so se doveva andare, poteva anche andare, non era quella la notizia, mi dispiace, l'avete fatta diventare... E qual è invece? No, ma certo non è la notizia principale, certo la notizia principale sono i morti, quello che è successo e perché è successo... Evitare che... Ok, ma non tutto è evitabile, non tutto è evitabile, non è che ci sia per forza qualcosa di evitabile, non lo so, può darsi pure che sia evitabile, ma non lo do così per scontato che sia tutto evitabile. Se il mondo fosse perfetto, se tutte le manutenzioni fossero fatte perfettamente, non ci sarebbero incidenti. Gli incidenti ci sono, perché ogni tanto le manutenzioni sono fatte, perché ogni tanto la meccanica e l'ingegneristica non sono così perfette al 100%, cioè non sempre c'è una... Riducibile nei danni. Nei danni, Barbara, è l'esplosione di un vagone di GPL al centro di una città, sa, i danni sono quelli, non è che possono non essere... Non sto parlando, ma bastano mie le considerazioni, ripeto, se fossimo stati in India l'avrei forse accettato meglio, dove lì salta di tutto, dove negli altri paesi dove squacciano gli oleodotti per prendere il petrolio, va bene, ma in Italia secondo me è quello, e a me quello che dispiace è il coccodrillismo, l'attimo di coccodrillismo. Sì, ho capito. Il signore ci ha messo due momenti a dire delle belle parole e a fare un figurone, parole, quando invece se ci fossero più fatti per evitare che dopo si debba dover scrivere ah sono indignato per questo, quella sarebbe la novità. Ma infatti io non lo dico e non sono indignato per nulla, perché ancora non si sanno le cause di questa tragedia. Emiliano da Roma, buonasera. Buonasera, salve. Senta, non mi piacciono le contestazioni come quelle di Viareggio, quando raggiungono toni troppo esacerbati e hanno come scopo solo quello di far star zitto qualcuno, sono inutili. Però mi spaventa anche l'idea, adesso tacciamo perché ci sono i morti, perché mi ricorda un po' troppo la solita storia che abbiamo visto con le tragedie come Ustica, la strage di Bologna, eccetera. Adesso silenzio perché ci sono i morti. Forse si può anche parlare quando ci sono grandi. Ma no, ma io dicevo silenzio in un altro senso. Silenzio. No, io ho capito il suo senso. Chi non parla? Forse si fanno le ipotesi più fantasiose dappertutto, anche sulla morte di Michael Jackson, sulla morte di chiunque, e si continueranno a fare ipotesi anche e soprattutto su questo incidente nei prossimi giorni. Per cui nessuno chiede il silenzio. Dico semplicemente che sentire delle contestazioni quando arrivano le istituzioni, contestazioni francamente non particolarmente spiegabili, se non secondo me con l'odio politico nei confronti di Berlusconi, secondo me è stato qualcosa di cattivo gusto. Dunque condividevo quello che ha scritto quel nostro interlocutore all'inizio della trasmissione. Allora sono perfettamente d'accordo con lei. Cioè nessuno dice che non bisogna parlare, bisogna fare silenzio, pregare, cosa rispettabilissima per carità, e non discutere di quello che è successo, discutere delle cause, si poteva evitare, non si poteva evitare. Però secondo me in questo caso le contestazioni, anche se non particolarmente diffuse, sono state di cattivissimo gusto. Antonio, vuole aggiungere qualcosa? Sì, che forse lo spettatore, l'ascoltatore di prima che faceva riferimento all'opportunità, non dico politica, ma forse anche comunicativa, di mandare qualcun altro. Cioè, c'è un responsabile della protezione civile che ha poteri straordinari, qualcuno sui giornali ha addirittura richiamato i poteri di un dictator di romana memoria, no? Ha poteri straordinari. Forse in questo momento, non nel merito politico, ma nel merito comunicativo, era meglio far parlare Bertolaso, anche per evitare questo genere di reazioni. Che non lo so, Emiliano, non credo che sia così. Non... Adesso si decide pure quando il Presidente del Consiglio può parlare o non può parlare. Vabbè, Antonio questa volta da Roma. Dica, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire a proposito di questo intervento che lei ha ripetuto più volte, insomma, del bloggista. Ritengo esagerato in generale la contestazione odierna, non credo che sia stato qualcosa di organizzato da chiunque, però la cosa che volevo sottolineare era questo. Ritengo veramente esagerato il bloggista quando dice che chi ha contestato in quel momento è indegno di stare al mondo. Trovo queste parole e questo modo di enfatizzare poi queste parole che lei sta facendo in questo programma oltremodo fazioso. Non ho capito, cioè enfatizzare le parole di questo blogger è fazioso? Assolutamente sì. Cioè, lei in questa trasmissione ha ripetuto più di una volta. E infatti lei sta chiamando per dire che non è d'accordo. Non sono d'accordo. E dov'è la faziosità, mi scusi? La tesi che domina per niente, perché abbiamo avuto il 70% di telefonate. Scusi un attimo, io sto sentendo anche male, ma ho ascoltato il 70% di telefonate contrarie a quello che ha scritto questo blogger, che peraltro si chiama Destro di cognome. Per cui di che stiamo parlando? Non mi pare che ci sia un pensiero comune su questo. Io ho avuto l'esatta impressione opposta, mi spiace. Avrà sentito solo una parte della trasmissione. Le dico che il 60-70% delle persone che ci hanno chiamato la pensano in modo diverso da quello che ha scritto Destro. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa, Antonio? Ma volevo dire che una contestazione di un Presidente del Consiglio è una cosa prevista, prevedibile in questo momento, poi in cui anche il presidente Napolitano parla di abbassare i toni. Penso che il presidente del Consiglio potrebbe finirsi da presentarsi lì e appunto Ah, questa è bella, questa è bella. Cioè, siccome Napolitano ha chiesto di abbassare i toni, Berlusconi non doveva andare a Viareggio. No, non dico che non poteva evitare di parlare di sinistra quando ci sono delle persone che contestano. Ma quello è successo a Napoli, quello è successo. Quello è successo a Napoli, primo. Ma insomma, le persone contestano. Berlusconi dice, sbagliando, secondo me, tra l'altro, questa è la sinistra, invece sono solo delle persone che contestano sempre. Poi quando un presidente del Consiglio va a Napoli per motivi più disparati, perché hanno paura di rimanere disoccupati, eccetera, eccetera, la colpa è di Berlusconi. Ma questo è veramente incredibile. Vabbè, insomma, Cesare da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, cercherò di essere brevissimo, un paio di cose. La prima è complimenti all'ascoltatore, 5-6 ascoltatori fa, Emiliano, elettore del centro-sinistra, io essendo elettore del centro-destra, che apprezzo sempre quando l'opposizione è costruttiva, più che distruttiva, come è solito fare la sinistra. La seconda cosa è a riguardo a cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare. Volevo ricordare a tutti i disfattisti che purtroppo per questi 14 morti che ci sono stati, ma cosa diciamo allora a tutti quei morti sulla strada per ubriachi e drogati che sanno benissimo che quando fanno questo gli viene ritirata la patente e continuano a farlo, ammazzano vite innocenti, lo sanno e nessuno dice niente. Vogliamo dare la colpa a Berlusconi anche di questo? Diamogliela. Ultima cosa, dottor Cruciani, era... Non ho capito molto questa cosa, però comunque insomma andiamo avanti. L'ultima cosa che volevo dirle è in merito all'intervento di questo pseudo prete Don Farinello, che nonostante Farinella, la gravità Farinella. Farinella, mi perdoni, sì. Nonostante la gravità di quello che è successo oggi, io veramente non mi sento rappresentato da cattolico da questo, ripeto, sì, però, Cesare, che nonostante tutto non ha detto una parola di conforto per quei poveri morti, ma ha avuto solo il coraggio di sperperare Berlusconi. Sì, no, ma Cesare, sì, lei mi potrà anche ringraziare, però Don Farinello non è intervenuto sulla tragedia di Viareggio, l'abbiamo chiamato per alcune cose che ha scritto di recente su Berlusconi e la vicenda delle donne. Gino dall'Aquila, siamo verso la conclusione, manco un minuto e mezzo, dunque interventi sintetici. Gino, prego. Salve. Niente, io chiamo perché da aquilano, quindi terrestre, mi sono un po' riconosciuto in quello che devono aver vissuto a Viareggio, e anche da noi, a morti e cadaveri ancora caldi che venivano tirati fuori dalle macerie, abbiamo iniziato a vedere questa passione di politici, e che non, cioè, sicuramente non aiuta le operazioni di soccorso, non porta un supporto neanche morale alle popolazioni, perché uno lo vede che è un fare scena, diciamo, più che un, ho capito, più che un vero. Sì, però Gino, una cosa è la passerella dei politici, una cosa è la presenza del Presidente del Consiglio o del responsabile della protezione civile, che peraltro è anche un sottosegretario, dunque ha anche un ruolo politico. Ora, anche in alcuni casi ci possa essere un intralcio, non c'è dubbio, quando i politici sono troppi, quando arrivano in massa in un posto, non c'è dubbio. Dopodiché poi non è, secondo me, il caso di Viareggio. Il capo dipartimento della protezione civile è di stare lì sul posto. Il presidente del consiglio dà il suo supporto, non linea caduta. Paolo da Cuneo per concludere. Pronto? Salve, saluto lei, dottor Cruciani, e tutti gli altri. Sì, 30 secondi, Paolo, poi dobbiamo chiudere. Osservazione molto semplice. Il presidente Berlusconi oggi poteva avere un'occasione per passarci, per fare una bella figura da un punto di vista tecnico. Ha usato, cioè doveva dare un po' più spazio, secondo me, a Bertolaso per i dettagli tecnici, e non usare quell'espressione infelice, sversamento del GPL. Lo sversamento è stata la causa del disastro, non è il rimedio che lui ha indicato. Quindi dovrebbe documentarsi un po' meglio. Vabbè, prima, insomma, secondo lei doveva lasciare la parte tecnica a Bertolaso e non, non parlare d'altro. Tra l'altro, in uno dei suoi interventi Berlusconi ha detto che ha già dato un'interpretazione di quello che è accaduto, perché ha detto se non ci fosse stato un motorino che passava lì non ci sarebbe stato l'innesco per l'esplosione. Ma ci sentiamo domani 18:30, altri aggiornamenti naturalmente nel giornale radio delle 21 tra poco. La Zanzara.